Barcelona saprai cosa vuol dire suonare per te. Spedisco mai, sono le mie scale di casa, i pensieri a cui torno e non